Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti, puntuale alle 16, inizia una nuova puntata di Attica Blues. Oggi torniamo ad occuparci di jazz con le nuove uscite discografiche in questa prima parte del 2021. E iniziamo in grande stile con un disco uscito lo scorso 12 marzo ed è il terzo album del quintetto americano The Marvel, capitanato dal sassofonista Charles Lloyd. Tom Poem è il titolo, uscito per la Blue Note Records, e vede in questa formazione il chitarrista Bill Frisell, l'altro chitarrista alla pedal guitar Greg Lanes, il contrabbasso è quello di Ruben Rogers e la batteria di Eric Harland. 9 brani in scaletta, 3 portano la firma proprio di Charles Lloyd e invece gli altri 6 quella di musicisti a lui molto cari. Per un disco che si apre con 2 omaggi a Ornette Coleman, noi abbiamo scelto il secondo, Rapplin. andiamo avanti ancora con un sassofonista tenore a noi molto caro, con l'incontro intimo tra Archie Shepp e il pianista Jason Moran. Una nuova uscita discografica in questo 2021 per la Archibald, il titolo del disco è Let My People Go. E anche qui alcuni brani scritti da Archie Shepp e molti standard. Noi abbiamo scelto uno di questi, Jitterbug Waltz. Ha ha ha! avanti ancora con un maestro veterano del suo strumento. Qui, in questo caso, parliamo dell'organo Hammond e parliamo di Dr. Lonnie Smith. A marzo l'uscita del suo nuovo album, ispirato e profondamente funky, dal titolo Breathe Ancora, per l'etichetta Blue Note. Dr. Lonnie Smith, che entrò nella Blue Note negli anni 60 pubblicando una serie di album che hanno contribuito a definire il suono dell'organo nel jazz, proprio come anni prima aveva fatto Jimmy Smith. Nel 2016 il ritorno alla Blue Note dopo oltre 30 anni e ancora oggi, con questo bel disco che vede anche la partecipazione del chitarrista Jonathan Kreisberg e del batterista Jonathan Blake, che costituiscono il trio principale. In alcuni brani poi anche il trombettista Sam Jones, il sassofonista John Ellis e ancora il sassofono baritono di Jason Marshall e il trombone di Robin Eubanks, ma soprattutto anche la voce di Iggy Pop, come in questo brano che chiude l'album Sunshine Superman, Dr. Lonnie Smith. Cool, I think you adesso noi apriamo una parentesi dedicata alle nuove uscite discografiche dei Pianisti, con una breve anticipazione di quel che poi sarà l'uscita del nuovo album di Brad Mehldau, prevista per l'11 giugno 2021 insieme all'Orpheus Chamber Orchestra. Il titolo sarà Variazioni su un tema malinconico, e questa è una breve anticipazione. Ed è già uscito invece il 9 aprile il nuovo lavoro del pianista americano Vijay Iyer, il primo in trio dal 2015. Questo Uneasy, uscito per la ECM, segna il debutto registrato di questo gruppo con il batterista Taishan Soray e la bassista Linda May Ann Oh. Il trio ha suonato dal vivo per tutto il 2019, proprio in vista di questa registrazione che si è tenuta nel dicembre dello stesso anno. Noi abbiamo scelto la traccia di apertura, questa Children of Flint, che si riferisce ad una crisi ambientale ed umanitaria che si è verificato quando l'approvvigionamento idrico della città del Michigan è stato avvelenato con il piombo a causa della negligenza del governo statale, che ha poi tentato un insabbiamento. Vijay Iyer Trio. Allora, si chiama ancora con un pianista e ancora con un album firmato ECM. Human è il titolo del nuovo lavoro di Shy Maestro, il secondo per l'etichetta bavarese. Un disco questa volta in quartetto che vede anche il contrabbassista peruviano Jorge Reder, il batterista Joffrey Neyma e il talentuoso trombettista Philip Dizak. La traccia che abbiamo scelto per voi è Mystery and Illusion. Thank you. torniamo alla Blue Note con la nuova uscita discografica del polistrumentista e compositore Joe Chambers, che dal 1964 al 1971 dell'etichetta è stato il batterista di alcune registrazioni davvero fondamentali. E parliamo dei dischi di Freddie Hubbard, Donald Byrd, Wayne Shorter, Joe Henderson, Sam Rivers e ancora McCoy Tyner, Andrew Hill, e insomma tutto il meglio che passava per l'etichetta in quegli anni. Etichetta che poi in quegli anni gli ha anche offerto la possibilità di rilasciare un album da leader, ma lo stesso Chambers ha sempre rifiutato perché era davvero impegnato come sideman. Possibilità poi che si è ripetuta nel 1998 e questa volta il poliedrico musicista ha accettato. E così ancora nel 2021 in l'uscita di questo Samba G Maracatu, che riflette il famoso ritmo samba nato nello stato settentrionale di Pernambuco in mezzo alla diaspora dell'Africa occidentale. Accanto al batterista, il bassista Steve Haynes, il pianista Brad Merritt, in un disco che mette in scena una serie di standard e brani originali. Noi abbiamo scelto la title track. ad una musica davvero sperimentale e d'avanguardia, in un disco che vede l'incontro di Floating Points con la London Symphony Orchestra e il sassofonista Pharoah Sanders. Il tastierista e produttore di musica elettronica ha infatti incontrato proprio Sanders nel 2019 e ha completato questa registrazione nel 2020 con l'aggiunta di violini, viola e violoncelli e i contrabbassi della London Symphony Orchestra. Il risultato è una suite di oltre 46 minuti che vede 9 movimenti per un album davvero importante e originale. Noi abbiamo scelto il movimento d'apertura. Qualcosa di decisamente più leggero con l'uscita del primo album dal vivo pubblicato da Norah Jones. L'etichetta non può che essere la Blue Note, che praticamente possiamo dire che è la stessa cantante e pianista ha salvato con l'uscita del suo primo album avvenuta nel 2002 e che portava il titolo di Come Away With Me, un album che appunto col suo straordinario successo è riuscito a dar nuova linfa all'etichetta di New York. E allora noi ci ascoltiamo una registrazione live avvenuta nel 2018, tratta da un tour che ha toccato gli Stati Uniti, l'Italia, la Francia, il Brasile e l'Argentina. Questa probabilmente è la sua traccia ancora oggi più famosa, Don't Know Why, Norah Jones. Sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, Attica Blues, con una puntata dedicata alle nuove uscite discografiche. Ultimi due brani in scaletta per noi e ritorniamo alla Impulse per il quarto lavoro del gruppo Sons of Kemet, uscito freschissimo lo scorso 14 maggio. Un lavoro che riprende e continua il messaggio dei grandi album di protesta, quelli di Max Roach, di Archie Shepp, di Gil Scott Heron, e riprende anche un po' dei messaggi di Lynton Quincy Jones e Public Enemy. Shabaka Hutchings, leader di questa formazione, infatti affronta con questo disco l'esperienza nera dalla schiavitù coloniale all'ascesa internazionale del Black Lives Matter nel mezzo della lotta per l'autodeterminazione, mentre cancella i confini artificiali tra jazz, dub, highlife, afrobeat, calypso, rap, funk e soul, senza atteggiamenti sterili. Un album davvero importante da ascoltare, tutto in un fiato. Questa è Think of Home. Thank you. Era la pedona con la tromba di Paolo Fresu, il bandoneon di Daniele Di Bonaventura e il violoncello di Jacques Morel Bound. In questo caso l'uscita è un'uscita tripla per festeggiare il 60° compleanno del trombettista sardo, che appunto si è voluto regalare 3 dischi con 3 progetti diversi, di cui uno dedicato a David Bowie. Note di Paolo Fresu, noi vi ricordiamo che è sempre aperto il radioabbonamento per sostenere questa piccola grande radio. Per tutte le informazioni basta andare sul sito www.ondarossa.info, dove troverete pure tutte le scalette e i podcast di questa, ma anche di tutte le altre trasmissioni di una radio che trasmette ininterrottamente dal 1977, senza padroni e senza pubblicità. Naturalmente a seguire Attica Blues anche sui social, ci trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove invece è presente una ricchissima playlist di più di 100 ore di musica nera. Un buon weekend, noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.